GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nuova ondata di maltempo in regione con piogge abbondanti e forti temporali nella notte, diversi alberi caduti in Friuli e nel Monfalconese dove l'acqua ha allagato alcune abitazioni di Marina Giulia. Allerta meteo gialla fino alla mezzanotte. Massimiliano Fedriga smentisce le voci che lo volevano a Roma nel nuovo governo di centrodestra e si dice pronto a ricandidarsi per le regionali con una sua lista. La Flex di Trieste non delocalizza ma riduce gli organici penalizzando 72 interinali, vicenda va. L'ha avviate le operazioni di carico dei motori sulla nave per la Corea. E di un morto e due feriti gravi, il bilancio di un terribile frontale accaduto alle porte di Pordenone con più vetture coinvolte di cui una ha preso fuoco. A causa del caro bollette, gli albergatori di montagna costretti ad accorciare la stagione, mentre i comuni si preparano per risparmiare energia. I temi che riguardano i cittadini in difesa della propria privacy al centro dei lavori del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome che si apre oggi a Trieste. Siccità, alluvioni e allagamenti, emergenze sempre più attuali legate alla crisi climatica da affrontare e risolvere al più presto. Ne ha parlato il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio a Trieste per l'inaugurazione della mostra sui terremoti d'Italia. Inaugurata sotto la pioggia a Gorizia, la rassegna Gusti di Frontiera che ritorna a pieno regime con oltre 300 stand enogastronomici proposti da una quarantina di paesi. La commedia Up in Mabel's Room apre stasera al Teatro Zancanaro di Sacile le giornate del cinema muto che da domani saranno di scena a Pordenone. A Trieste, debutto di stagione per il Teatro Bobbio con L'estinzione della razza umana, commedia tragicomica scritta e diretta da Emanuele Aldrovandi. Le 7:20 minuti in questo istante, buongiorno da Giorgio Bearz e Nada Cioc che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 30 settembre. Cominciamo subito dalla situazione del meteo che vede prolungarsi l'allerta gialla della Protezione Civile fino alla mezzanotte di oggi. Nella notte, l'avete sentito dai titoli, ancora piogge abbondanti e colpi di vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi in Friuli, da Pontebba, Nimis, Attimis, Savogna. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per mettere in sicurezza alberi pericolanti nel Monfalconese, dove l'acqua ha allagato alcune abitazioni di Marina Giulia. Le idrovore dei pompieri al lavoro nella notte anche a Talmassons per scantinati allagati, a Codroipo e Manzano la pioggia già allagato alcuni sottopassi. Nel dettaglio a Pavia di Udine interventi per strade allagate, in particolare via Marconi e via Garibaldi, con 30 centimetri d'acqua che hanno bloccato la circolazione dei veicoli. La viabilità interessata dall'allagamento è stata transennata e sono stati posizionati segnali di pericolo. Alcune vetture sono rimaste bloccate, poi la situazione è rientrata. Ad Attimis, per una frana di detriti che si è riversata sulla carreggiata in Borgo Pecolli, il materiale è rimosso da volontari e la viabilità è stata ripristinata. Tra Basiliano e Campoformido, intervento dei vigili del fuoco per l'allagamento del sottopasso di via Luigi Magrini. Le squadre hanno continuato il monitoraggio, scesi in campo un centinaio di volontari attivati dalla SOR, Sala Operativa Regionale della Protezione Civile di Palmanova. E vediamo le temperature registrate alle 6. Trieste 14,5 gradi, mare quasi calmo, con temperatura di 21 gradi e 5 decimi. Udine, Pordenone, Gorizia 13,5 gradi, Tolmezzo 12,5 gradi, Forni di Sopra e Tarvisio 8 gradi, Piancavallo 7, Sappada 6,5 gradi, sullo Zoncolano e sull'Ussari 4 gradi. A Grado 18, Lignano 17,5 gradi, la temperatura del mare in laguna 19 gradi. E queste le previsioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Oggi il cielo sarà in prevalenza nuvoloso su tutta la regione, con maggiore nuvolosità sulla fascia orientale. In giornata probabile qualche rovescio temporalesco e piogge sparse, in genere abbondanti, moderate sulla fascia occidentale. Le piogge potrebbero anche prolungarsi su pianura e costa fino alla notte di sabato. La politica in prima pagina. Il presidente della regione Fedriga smentisce le voci che lo vorrebbero a Roma nella nuova compagine di governo con nuovi incarichi al vertice della Lega e conferma la sua candidatura alla presidenza del Friuli Venezia Giulia in vista delle prossime elezioni regionali a capo di una sua lista. Massimiliano Fedriga e Luca Zaia insieme e d'accordo, ministri no grazie. La prima apparizione pubblica dalle elezioni è a Trieste. Niente colpi di scena, entrambi vogliono essere governatori. Fedriga conferma la candidatura alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia, non vuole una poltrona di ministro e tantomeno quella di segretario della Lega. Il risultato delle elezioni non è stato entusiasmante per il partito, dice il governatore regionale, ma penso non sia necessario drammatizzare, piuttosto avere senso critico e l'ottimismo di costruire e andare avanti insieme. Ci sarà un nuovo Salvini nella Lega? È stata confermata dal Consiglio federale la posizione unitaria, dice. Fedriga desidera ancora un futuro da governatore in Friuli Venezia Giulia se, sottolinea, lo vorranno gli elettori. Spero che il dopo Fedriga sia Fedriga in Friuli Venezia Giulia, però questo mio spiccio rispetterà del voto. Candidatura confermata a margine della presentazione dei primi progetti di partnership in campo sanitario tra la Regione e la Novartis multinazionale farmaceutica. Come confermate sono liste e alleanze alle prossime regionali. Ci sarà la lista Fedriga, ci sarà la lista Lega, ci sarà la lista di Forza Italia, ci sarà la lista di Fratelli d'Italia, ci saranno tutte le liste che mi appoggiano e mi sembra che su questo tutte le forze politiche abbiano ribadito anche dopo il voto la volontà di continuare insieme, confermando il percorso fatto in questi anni che penso in mezzo a molte difficoltà ma sia stato positivo. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora le crisi nel mondo del lavoro, cominciando dalla Flex, dove è stato raggiunto un accordo tra l'azienda e i sindacati per mantenere la produzione nel sito triestino. Un piano che prevede 48 uscite volontarie e il mancato rinnovo del contratto di 72 interinali. Intanto sul fronte Wärtsilä sono stati imbarcati ieri i primi dei 12 motori diretti in Corea del Sud. La Flex resta a Trieste, la produzione non sarà delocalizzata in Romania. È l'accordo tra la multinazionale americana singaporeana con i sindacati FIOM, FIM e WILM. La Flex ha comunicato che con le 48 uscite volontarie e con il non rinnovo del contratto di 72 lavoratori somministrati, il piano industriale è coerente con la prosecuzione della produzione. L'accordo sarà ufficializzato il 20 ottobre al MISE. Antonio Rodà della WILM. Sicuramente un primo passo per cercare di governare una situazione comunque ancora caratterizzata da incertezza, ma che sicuramente rispetto agli inizi, come si era posta, si sta cercando di risolvere il migliore dei modi. L'accordo non è condiviso dall'USB, dove la vittoria se si prevede l'uscita complessiva di 140 lavoratori, scrivono in una nota. A inizio estate la proprietà ha annunciato 280 esuberi su 540 dipendenti, numero che si riduce ora a 160. Rinnovati per un periodo più breve i contratti di solidarietà. Resta aperta la questione del mancato rinnovo per 72 dipendenti. Dobbiamo cercare di ricollocare queste persone che hanno anche età, non sono tutti ragazzi che possono facilmente spendere un curriculum sul territorio, ci sono anche persone che hanno passato ampiamente i 50 anni e che quindi sono profili sicuramente più difficili da ricollocare. Intanto sul fronte Wärtsilä qualcosa si muove, i primi dei 12 propulsori diretti in Corea del Sud sono stati imbarcati sulla nave UHL Fusion. La situazione è stata sbloccata quando l'azienda finlandese ha comunicato ai sindacati il ritiro della procedura di licenziamento avvenuta dopo la decisione del giudice del lavoro di venerdì scorso. Resta in bilico la decisione della regione se procedere col ricorso, fa sapere l'assessora al lavoro Alessia Rosolen, dato che Wärtsilä non ha garantito di aver rinunciato ad impugnare la sentenza che l'ha condannata per condotta antisindacale venerdì scorso. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Posizione contraria alla partenza dei motori da EUO è stata espressa dal coordinamento dei lavoratori portuali in una nota duramente polemica con i sindacati confederali. Il CLPT invita i lavoratori che dovrebbero essere impegnati all'imbarco dei motori a non partecipare alle operazioni. E ora la cronaca: incidente stradale con un morto e due feriti gravi ieri a Pordenone in viale Treviso, un frontale tra due automobili in cui ha perso la vita Mario De Marchi, 72 anni, deceduto in ospedale. I due feriti sono in gravissime condizioni. Si tratta di Gloria Ragogna, la moglie 61enne di Mario De Marchi, ricoverata all'ospedale di Pordenone. È stato egli trasportato a Udine il conducente dell'altro veicolo, Leonardo da Silva, di 50 anni. La sua auto nell'urto ha preso fuoco. Una terza automobile per evitare l'impatto con le due vetture è uscita di strada, ma la conducente fortunatamente è rimasta illesa. De Marchi era un ingegnere ed ex atleta, un velocista che con la maglia del Belgio aveva corso anche contro Pietro Mennea. Viveva da una decina d'anni a Pordenone. Fabio Tujax, ex consigliere del Comune di Trieste, ex Lega e Forza Nuova, nonché esponente del Movimento dei Portuali del capoluogo triestino ed ex pugile, è stato condannato a Trieste a 2 anni di reclusione senza beneficio della pena, sospesa per diffamazione. Lo rende noto l'associazione Sentinelli di Milano, che aveva presentato una denuncia per diffamazione a seguito del post che l'ex consigliere scrisse a febbraio del 2021 dopo un caso di aggressione omofoba avvenuto a Trieste. Da alcuni giorni Cesare Battisti è un detenuto comune in regime di carcerazione dell'ex terrorista arrestato a gennaio del 2019 in Bolivia, fino ad ora recluso in regime di alta sicurezza, è stato declassificato. Il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria gli è stato notificato nel carcere di Ferrara, dove Battisti si trova da giugno 2021 in un regime di semi-isolamento e ora potrebbe essere trasferito a Parma. Si tratta di un provvedimento di natura amministrativa che non cambia nulla rispetto alla pena che l'ex terrorista deve ancora scontare. Battisti, lo ricordiamo, fu condannato all'ergastolo per 4 omicidi, tra cui quello del maresciallo degli agenti di custodia Antonio Santoro, ucciso a Udine il 6 giugno del 1978. Si è concluso con un'assoluzione davanti al giudice monocratico del Tribunale di Udine il procedimento penale a carico di Giampaolo Peruzzi, 67enne di Tavagnacco, residente a Moggio Udinese, già dipendente del Comune di Donia sino al 2014. L'uomo era accusato di peculato per una serie di ammanchi ai danni del Comune in cui ricopriva il ruolo di responsabile dei servizi finanziari. Il giudice, accogliendo sia la richiesta della difesa sia della pubblica accusa, lo ha assolto in quanto il fatto non sussiste. Cambiamo argomento. Si prospetta un inverno difficile per gli albergatori della regione. A causa dei rincari delle bollette, molti potrebbero essere costretti ad accorciare la stagione o a restare aperti, ma solo nei fine settimana. Aperti forse, quanto costerà una camera? Impossibile dirlo. A Trieste ci sono hotel che non riescono a fornire disponibilità e prezzi in vista della prossima stagione di eventi e congressi. Una ventina ipotizzano chiusure temporanee, di fatto 1 su 4 del settore accoglienza, conferma Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi nel capoluogo giuliano, dopo l'allarme sullo stop di tante strutture della montagna. L'inverno congela il settore dell'accoglienza in regione, non solo il caro bollette triplicate, quelle della luce. I rincari delle lavanderie sono arrivati al 40%, spiega Lanci. Una spirale involutiva che toccherà tutti. Niente assunzioni, rinnovi dei tempi determinati del personale alberghiero in forse, rischio cassa integrazione e fine degli introiti per tantissime delle centinaia di strutture extra alberghiere, dall'appartamento al B&B, che punteggiano la Trieste riscoperta negli ultimi anni dal turismo. Chiudere per sopravvivere. Il 15% delle circa 90 strutture della montagna sono a rischio stop. Terremo duro fino all'Epifania, dice la presidente regionale di Federalberghi Paola Schneider. Poi si vedrà. Si ipotizzano soluzioni, chiusure anticipate oppure aprire solo nei fine settimana, ma il rischio disaffezione della clientela è elevatissimo, o mettere in conto un supplemento energia. Ma se il cliente si rifiuta di pagarlo, che cosa si fa? La montagna tutto l'anno, quella destagionalizzata, secondo i progetti condivisi con Promo Turismo, non è mai sembrata così lontana agli operatori delle terre alte. Le più in difficoltà sono le strutture medio-piccole, dice il presidente della Destra Tagliamento Giampiero Zanolin. Le chiusure temporanee rischiano di diventare definitive. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. In vista dei già annunciati rincari dell'energia del quasi 60%, cresce la preoccupazione dei sindaci che faticano a chiudere i bilanci dei comuni per pagare le bollette. In difficoltà soprattutto le amministrazioni medio-piccole, mentre aumentano le richieste di aiuto all'ANCI. A Remanzacco la sindaca Brizzi è riuscita a fatica a far quadrare i conti. Per poter pagare le bollette sta usando l'avanzo libero di amministrazione, 170.000 euro in più di stanziamenti per i costi energetici, coi quali potrà arrivare però solo fino a fine anno, dice. L'anno nuovo resta una grande incognita, aggiunge, preoccupata anche per i suoi concittadini, mentre per risparmiare, come già altri sindaci, annuncia l'intenzione di spegnere le luci sulle strade comunali dalle 2 alle 5 del mattino. Gemona lo ha già fatto ad aprile, coi primi aumenti in bolletta, riducendo così i costi del 35%, fa sapere il sindaco Revelant, che assicura: se costretti taglieremo ancora, puntando a razionare i consumi e garantire al contempo i servizi essenziali e la tenuta del bilancio senza gravare su cittadini e imprese. Intanto ha accelerato un massiccio programma di efficientamento energetico degli edifici comunali da oltre 1.200.000 euro. Sulla stessa strada San Vito al Tagliamento, dove il comune punta soprattutto sulla comunità energetica che sta nascendo in zona industriale. Nessun taglio all'illuminazione pubblica grazie alle nuove luci a LED, ma nei nostri edifici, salvo le scuole, terremo spenti i termosifoni finché potremo, afferma il sindaco Bernava, che invoca nuovi aiuti da Stato e Regione. Sono solo alcune delle tante segnalazioni di sindaci in difficoltà raccolte nelle ultime settimane dall'Associazione dei Comuni. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il presidente del Consiglio regionale Piero Zanin aprirà i lavori del coordinamento nazionale dei difensori civici delle regioni e delle province autonome. Il coordinamento proseguirà per 2 giorni ed è previsto a Trieste anche il confronto tra le varie esperienze dei difensori civici. Durante il convegno interverranno anche Alessandra Stella, presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Umberto Zuballi, già presidente del TAR del Friuli Venezia Giulia, e Barbara Puschiasis, avvocato specialista nella tutela dei consumatori. Ad Arrigo De Paoli, difensore civico del Friuli Venezia Giulia, abbiamo chiesto quali sono i temi che più attanagliano i nostri cittadini, che cercano anche di difendere la propria privacy. Quantomeno dell'interlocuzione privilegiata fra il cittadino e la pubblica amministrazione, cioè il cittadino che sente di non portare la propria voce alla pubblica amministrazione, allora può rivolgersi a un'interlocuzione tecnicamente preparata, insomma, e abbastanza ascoltata. La vostra figura ci aiuta a dialogare con le amministrazioni pubbliche, ma il cittadino oggigiorno forse ha tantissime difficoltà a tutelare la propria privacy. Ci sono alcune regole che dovremmo osservare anche noi, però è difficile poi a farle valere. E poi ci sono anche i diritti al consumatore. Siamo in un periodo di grande disorientamento, devo dire, perché il cittadino comune appunto si trova come consumatore tutelato comunque altrimenti, si trova però con una pubblica amministrazione a cui puoi accedere spesso soltanto online e soltanto attraverso la via telematica, il che non è da tutti, no? Infatti molti sono terrorizzati dallo spin e da modalità di accesso di questo tipo. E quindi al di là di tutto si offre la possibilità di avere uno scambio di idee e anche una verifica delle proprie iniziative, cioè della fondatezza delle proprie lamentele, se si lamentano per esempio dei ritardi della pubblica amministrazione, se si lamenta il negato accesso ai documenti, allora in questo caso è possibile fare ricorso al difensore civico, se si lamentano questioni ambientali, se ci si lamenta, non so, del traffico cittadino come congegnato, insomma di tante tematiche che riguardano il vivere quotidiano, se ci si lamenta, non so, di liquidazioni all'INPS che non arrivano mai e quant'altro, insomma. A Gorizia ha preso il via ieri Sotto la pioggia, il lungo weekend di Gusti di Frontiera, la più affollata kermesse enogastronomica del Triveneto, che torna dopo 2 anni di stop a causa della pandemia con grandi numeri e molte novità. Sentiamo. A Gorizia il mondo è a tavola, è allora che la festa cominci nonostante la pioggia. La festa di Gusti di Frontiera, 17ª edizione, inaugurata tra novità, tradizioni e sorprese. Un ritorno alla grande dopo 2 anni di stop causa pandemia. Un lungo weekend fino a domenica prossima dedicato a un mondo di sapori, profumi e colori. Gusti di Frontiera è la più grande kermesse enogastronomica del Triveneto e uno dei più importanti eventi in Italia e in Europa dedicato al cibo di strada e alla cultura enogastronomica. Oltre 320 gli stand in rappresentanza di più di 40 paesi in tutto il mondo. Una formula collaudata con qualche novità, come la presenza per la prima volta di Slow Food con tutti e 13 i presidi regionali. Poi ci sono i borghi tematici con il Borgo Novità, dove poter degustare piatti e prodotti inediti mai proposti a Gusti di Frontiera. La kermesse, lo ricordiamo, è organizzata dal Comune di Gorizia col sostegno della Regione. regione. Grande attenzione anche alla sicurezza, con oltre 300 tra addetti e forze dell'ordine presenti ogni giorno. In primo piano ovviamente le eccellenze del territorio, oltre ai presidi, Slow Food, la Ribolla Gialla, la Rosa di Gorizia, la Lavanda, i vini DOC del Goriziano. Un lungo weekend nel segno di sapori e saperi senza frontiere, una vetrina internazionale che guarda già a Go 2025. Gorizia, Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. Siccità, alluvioni, allagamenti, emergenze sempre più attuali legate al riscaldamento globale. Ne ha parlato il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio a Trieste per l'inaugurazione della mostra sui terremoti d'Italia. Giovani e scolaresche sono soprattutto loro i destinatari della mostra I Terremoti d'Italia, in corso al Centro Congressi del Porto Vecchio. Il tema per la protezione civile è come un ritorno alle origini. Il nostro sistema di difesa civile nacque all'indomani dei terremoti in Friuli e in Irpinia. Forze dello Stato, volontariato, ricerca scientifica, gli assi portanti. Ma funzionano se la popolazione è preparata, se la consapevolezza del rischio è diffusa, se le regole basilari di comportamento sono conosciute. L'idea della mostra, che fa tappa a Trieste per iniziativa dell'università, nacque appunto nel decennale del sisma che colpì Marche e Umbria. L'intento di spiegare cos'è un terremoto, perché avviene, come si tiene a bada l'Orcolat, si è rafforzato in seguito ai disastri successivi. Il 40% della popolazione italiana vive in aree sismiche di livello 1 e 2, ha detto Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, intervenendo all'inaugurazione ufficiale dell'esposizione. E nell'occasione il rettore dell'Ateneo Triestino Di Lenarda ha annunciato l'avvio quest'anno di una nuova laurea magistrale in geofisica e geodati con didattica interamente in inglese. Ma la protezione civile è alle prese con la nuova sfida imposta dai cambiamenti climatici, fenomeni violenti, localizzati e disastrosi come le alluvioni. Oggi c'è un tema nuovo, c'è un tema di cambiamento climatico, c'è un tema di vedere se i sistemi che sicuramente sono validi sui rischi più classici possono intervenire, possono performare meglio rischi ancora non del tutto poi chiari e quantificati, quindi questi temi sono certamente all'ordine del giorno. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Celebrata ieri la giornata mondiale del cuore, che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Particolare attenzione quest'anno è posta sui rischi per il cuore provocati dall'inquinamento atmosferico. Rappresentano la prima causa di morte e costituiscono una sfida sempre più grande per tutti i sistemi sanitari per via dei costi sempre più alti. Sono le malattie cardiovascolari. Lo slogan di quest'anno nella giornata mondiale per il cuore è «Usa il cuore per tutti i cuori», perché prendersi cura dei nostri cuori e di tutti i cuori in questo momento è più importante che mai. Fumo, sedentarietà, stili alimentari e inquinamento sono alla base dell'insorgenza di numerose patologie cardiovascolari. Un dato sconcertante: il 25% delle morti per malattie cardiovascolari sono attribuibili all'inquinamento. Prevenzioni e corretti stili di vita aumentano la possibilità di non incorrere in queste malattie. Massimo Imazio, primario di cardiologia, azienda sanitaria universitaria, Friuli Centrale. È veramente importante cambiare lo stile di vita, nel senso che al giorno d'oggi dei piccoli gesti, cercare di utilizzare la macchina il meno possibile, se possibile fare le scale anziché prendere l'ascensore, cercare di avere una camminata veloce, anche solo 30 minuti al giorno, qualcosa di estremamente economico, non richiede di andare in palestra, ma può fare la differenza. E quindi sicuramente direi che è raccomandato per tutti di fare una valutazione della glicemia, del profilo lipidico, della pressione arteriosa e poi quindi consultarsi col proprio medico di famiglia o col cardiologo per vedere se effettivamente c'è una... ci sono delle modifiche da fare dello stile di vita, eventualmente anche c'è già lo spazio per una terapia farmacologica che oggi può cambiare decisamente l'andamento il proprio rischio cardiovascolare. Il cuore è il motore del nostro corpo, tenerlo in forma allunga e migliora la qualità della vita. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. 7.41, parliamo di calcio in preparazione alla trasferta di campionato a Verona nel posticipo di lunedì prossimo. L'Udinese ha disputato ieri una partita sui campi del centro sportivo Bruseschi contro il Chions. Per i ragazzi di Sottil, neo vincitore del premio allenatore del mese in Serie A, vittoria col punteggio di 10-2. Dopo un'autorete iniziale a segno per 5 volte Nestorowski, oltre a una doppietta di Lovric alle reti di Arslan e Makengo, per il Chions assegno De Anna e Stossic. Oggi in programma una seduta pomeridiana. Di Trieste e delle varie discipline sportive in città si parlerà alle 18.30 all'ex Pescheria Centrale, Salone degli Incanti, nel corso dell'appuntamento La città dello sport, condotto dal giornalista Giovanni Marzini. Vedrà l'intervento di Mario Ghiacci, presidente della Pallacanestro Trieste, che oggi presenterà la squadra, Marco Loduca, ex giocatore della Pallamano Trieste, Enrico Samer, presidente della Pallanuoto Trieste, e Stefano Matarrese, marketing manager della Triestina Calcio. L'incontro fa parte delle iniziative per celebrare i 30 anni della Fondazione CR Trieste. Al magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste si accende la notte dei ricercatori in contemporanea ad altre centinaia di città europee, 20 gli appuntamenti in programma per adulti e ragazzi a partire dalle 16. Sharper Night, la notte più nitida, è la notte europea dei ricercatori nata 9 anni fa grazie al programma europeo Marie Curie, quest'anno incentrata sui cambiamenti climatici. Trieste partecipa con tante attività ospitate dall'immaginario scientifico al magazzino 26 di Porto Vecchio. Alle 17.30 Sara Zambotti, conduttrice di Caterpillar Rai Radio 2, dialoga con la presidente di Area Science Park Caterina Petrillo e altri ricercatori in diretta Facebook e sul profilo social di Area Science Park. Alla stessa ora l'Osservatorio Astronomico di Trieste propone un altro evento online per scoprire la storia di Margherita Hack, astrofisica e divulgatrice nel centenario della nascita. Dalle 20 saranno 3 gli eventi in contemporanea all'immaginario scientifico, uno sulle microplastiche a cura di ICGEB, uno sui segreti della materia a cura di Elettra Sincrotrone e poi un laboratorio di matematica applicata. Infine alle 21, sempre in Porto Vecchio ma in sala Luttazzi, il concerto accompagnato da panorami stellari mozzafiato con le gigantografie astronomiche catturate da telescopi alla scoperta dei segreti dell'universo. Per avvicinare il pubblico all'evento c'è anche una navetta che dalle 16 alle 23 partirà ogni mezz'ora da Piazza Unità con tanto di ricercatori a bordo per esplorare un po' di scienza durante il tragitto. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La commedia Nella camera di Mabel di Mason Hopper del 1926 apre in anteprima oggi il Festival del Cinema Muto al Teatro Zancanaro di Sacile alle 20.45. Il film, tratto da una pièce teatrale, riscosse un grande successo per la protagonista Marie Prevost nel ruolo di una giovane signora impegnata nella riconquista del marito, da cui ha divorziato, per un equivoco legato all'acquisto di un baby doll ricamato. La proiezione sarà accompagnata dal vivo dalla Zero Orchestra diretta da Günther Buchwald. La commedia L'estinzione della razza umana, scritta e diretta da Emanuele Aldrovandi, apre il sipario sulla stagione 2022-2023 del Teatro Bobbio di Trieste. È una commedia tragicomica che è stata segnalata anche per Eurodram 2022. Ad Emanuele Aldrovandi abbiamo chiesto come si è immaginato questa estinzione dell'essere umano. L'estinzione vera me la immagino a causa dei cambiamenti climatici e dell'impossibilità di vivere. E uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere questo spettacolo deriva da un'esperienza personale, cioè il fatto che io sono diventato genitore a gennaio 2020 e subito dopo sono rimasto bloccato in casa come tutti per tanti mesi a causa della pandemia. E infatti nel testo si parte esattamente da un presupposto simile, però il virus che blocca le due coppie di protagonisti dello spettacolo in casa non è il Covid, ma è un virus che trasforma gli esseri umani in tacchino. Il fatto che la trasformazione in animali ci trasformi proprio in tacchini, che sono animali da batteria che vengono allevati in condizioni terribili, e questo è un aspetto della scelta metaforica degli animali. Dopo l'estinzione della razza umana, mangia ancora carne di tacchino? Sì, perché io vivo nelle contraddizioni, nel senso che credo che in generale l'arte e il teatro abbiano valore se fa emergere delle contraddizioni con sincerità rispetto a chi le porta. Io come artista, come autore e come regista scrivo cose sulle quali non so bene cosa pensare. In questo caso io credo che sia terribile mangiare gli animali e continuo a mangiarli. Credo che la sincerità di un artista sia anche nello stare dentro le proprie contraddizioni e condividerle con i collaboratori, ma soprattutto col pubblico, divertendosi insieme con l'obiettivo di riflettere. Alle 7.47 minuti cominciamo la rassegna stampa di oggi dal piccolo edizione di Trieste. A centropagina la fotonotizia: Varzil ha imbarcati i primi motori per Daevoo, strade blindate per paura di disordini, oggi l'ultimo atto. Tra i dipendenti Varzil, molti criticano l'accordo, rimuovendo il blocco dicono abbiamo perso ogni arma. E poi l'allarme di Federalberghi, di cui abbiamo parlato, alberghi chiusi per il caro bollette da Trieste a Tarvisio. In montagna il 15% sospenderà l'attività in inverno, nel capoluogo regionale lo farà 1 su 4. Di spalla il brindisi triestino tra i governatori Luca Zaia e Massimiliano Fedriga. Noi ministri no, restiamo qui. Forse un giorno lo chiameremo il patto del Prosecco, non solo per ricordare la collaborazione tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nel capocronaca di Trieste poi dai progetti ai cantieri: così cambierà l'area di Campo Marzio Rive, posate le impalcature sul lato mare della stazione ferroviaria, procedono le opere all'ex meccanografico per la sede di Esatto, in vendita l'ex scuola professionale delle Ferrovie dello Stato. Prevenzione e cure, nuovi modelli nella medicina high tech, connessioni ospedale territorio e focus in ambito cardiovascolare, ecco i due asset del patto tra Regione e Novartis. E infine a fondo pagina post omofobo condanna a 2 anni per Tujak. Il caro energia che chiude gli alberghi d'inverno, in apertura anche del Messaggero Veneto di Udine, che dedica ai rincari energetici diverse pagine della cronaca cittadina, portando l'esempio della parrocchia delle chiese Sacro Cuore e Buon Pastore di via Cividale e via Di Giusto, che hanno ricevuto una bolletta da 9.000 euro. Il parroco Gabassi è propenso a spostare le messe in oratorio e aprire le chiese soltanto a Natale. Sui possibili interventi per far fronte al caro vita, il prefetto Marchesiello ha incontrato le categorie e le associazioni di consumatori e ribadisce la necessità di coinvolgere tutte le categorie. Dice: le scelte che possono arginare la crescita dei prezzi spettano al governo, ma a livello locale dobbiamo prestare attenzione alle fasce in difficoltà. Il Messaggero riferisce quindi dell'incontro di Fedriga e Zaia, che negano di voler fare i ministri, come abbiamo già sentito. Quindi le cronache di allagamenti, interventi della Protezione Civile ad Aquilei a mercoledì sera e poi le nozze in grotta Villanova a 100 metri di profondità domani mattina, il sito di Gianluca e Altea nella sala Regina Margherita della grotta. Il Messaggero di Pordenone apre invece con l'incidente mortale in viale Treviso, un morto e 2 gravissimi. Sempre in prima del Messaggero di Pordenone anche l'omicidio di Mattia Caruso, il venditore ambulante veneto che lavorava anche in Sacile, è stato ucciso dalla fidanzata. Dal piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone, contro il Green Pass candidata di Italexit, il ministero licenzia la poliziotta Schidirò, lesa l'immagine della polizia un anno fa. L'ex vicequestore originaria di Gorizia, sul palco della protesta a Roma, si era presentata al microfono da cittadina, ma lanciò nell'occasione pesanti accuse attaccando lo Stato. A centropagina la fotonotizia: gusti di frontiera, via la grande kermesse battezzata dalla pioggia, apre il paradiso delle specialità, un evento che è cresciuto, Go 2025 già iniziata, in aumento i turisti in città. Di spalla la cronaca con la notizia della coppia madre e figlio intossicata dal monossido di carbonio a San Floriano, sono in camera iperbarica a Trieste ma non in pericolo di vita. Poi la morte di un georgiano al CPR di Gradisca, avvenuta il 18 gennaio del 2020, 2 rinvii a giudizio, non acquisita una doppia perizia, contestato l'omicidio colposo all'ex direttore del centro e al centralinista in turno, processo fissato il 13 gennaio. Nel capocronaca di Monfalcone, il rebus regionale agita la giunta per il Ministero del Mare, idea Cisint. L'assessore Callari dice: la vedrei bene come sottosegretario. Garritani intanto pronto a candidarsi per Piazza Overton. Il rallentamento dell'economia in apertura del Gazzettino del Friuli, che titola "Calano gli ordini, arriva la prima ondata di cassa integrazione". Il giornale riferisce anche del caso degli alberghi chiusi e mancano quasi 2 milioni di euro per pagare le ore extra in corsia. La proposta dell'azienda sanitaria Friuli Centrale di rivedere le tariffe al ribasso viene però respinta dai sindacati. E poi il caso dell'ex direttore della BCC Bassa Friulana, che sarà risarcito con 500.000 di euro perché il licenziamento è stato illegittimo, così ha sentenziato la Corte d'Appello di Trieste. Il Gazzettino di Pordenone riferisce del sorpasso e schianto, muore ex campione Mario De Marchi, vittima dell'incidente di ieri, che è stato anche velocista, ricorda il giornale. Quindi il Gazzettino si concentra sui tempi di attesa nella sanità, nessuna visita rispetto ai tempi della legge nel Pordenonese e in Friuli. Alcuni appuntamenti di oggi in regione. Carlo Rovelli, fisico teorico, saggista e divulgatore, sarà all'Università di Udine per tenere una conferenza su La natura del tempo, da Anassimandro ai buchi bianchi. L'incontro, organizzato dalla Scuola Superiore Universitaria di Toppo Wasserman dell'Ateneo, si terrà alle 17.30 nel polo di Via Tomadini. Lo scienziato farà un breve racconto sulle inaspettate scoperte scientifiche sul tempo. Dialoghi, il festival itinerante di conoscenza raggiunge questa sera il Teatro Gustavo Modena di Palmanova con due appuntamenti. Alle 18 Sara Segantin, tra i fondatori italiani di Fridays for Future, presenterà il suo libro Non siamo eroi. Alle 19 la giornalista del Sole 24 Ore Eliana Di Caro presenterà il suo libro Le madri della Costituzione. Il legame tra l'opera di Pierpaolo Pasolini e le pagine di Bach, Rachmaninov, Paganini e Beethoven sarà dispiegato nel concerto del duo composto dal pianista Riccardo Gagliardi e violoncellista Milo Ferrazzini, con la partecipazione dello scrittore storico Angelo Floramo. La serata, nell'ambito dei suoni dei luoghi, si terrà alle 21 nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo della frazione di Paderno a Udine. Tre concerti dedicati al cenio di Salisburgo compongono il cartellone della prima edizione di Mozart e dintorni, rassegna musicale organizzata dall'Ente Regionale Teatrale insieme all'Associazione Mozart Italia con la direzione artistica di Nicola Bulfone. Un ricco percorso itinerante che toccherà Udine, Premariacco e Povoletto. Si inizia questa sera al Teatro San Giorgio di Udine con l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani. Prima di chiudere, la notizia di servizio sull'A23 Udine Tarvisio: per consentire i lavori di adeguamento della segnaletica di manutenzione dei giunti, dalle 22 di oggi venerdì alle 6 di domani sabato sarà chiuso il tratto compreso tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Lo rende noto la società Autostrade. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, si può percorrere la strada statale 52 Carnica e la Pontebbana per rientrare poi sull'A23 alla stazione di Pontebba. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Nada Cioc e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Giampaolo Zucchi. Ha collaborato in redazione Laura Serasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. A tutti l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.